bisogna vedere quale sicurezza, perché io credo che per i cittadini sia arrivare alla fine del mese, vivere in un ambiente sano, potersi curare, poter avere un lavoro con tutte le possibili situazioni che non la mettono a rischio la vita loro e dei loro familiari. Non certo quella di un'invasione, però sappiamo benissimo quanto il mantra invece del riarmo, il mantra del pericolo esterno, il mantra del doversi difendere si stia utilizzando per andare invece incontro alle esigenze, agli interessi di quella che appunto io chiamo il complesso militare, industriale e finanziario. Non è un caso che il numero che è circolato sui fondi per la difesa dell'aerospazio sia stato di 131 miliardi in questo bilancio settennale previsionale, che è esattamente la cifra che da tanto tempo tutte le industrie militari e soprattutto l'Associazione delle Industrie Militari Europee, praticamente la lobby armata nel nostro continente, stava dicendo: ci vogliono almeno 100 miliardi, almeno 100 miliardi. Quindi ancora una volta la Commissione Europea sembra aver detto signor sì agli interessi armati, come ha fatto, lo sappiamo, anche di recente. Tra l'altro è interessante vedere che appunto questo tipo di dati sono appunto inseriti in una proposta di bilancio. Quello precedente, quello 2021-2027 che stiamo vivendo adesso, è stato il primo bilancio dell'Unione Europea in cui alcuni fondi per le armi, comunque per l'industria militare, erano stati inseriti direttamente. Quindi era stato un unico, no? Purtroppo, come è successo anche precedentemente, si è aperto con dei primi passi a poi arrivare ai livelli attuali. E nel bilancio settennale, peraltro la previsione era minore, è stata aumentata a causa dello scoppio della guerra in Ucraina, c'erano circa 12 miliardi e mezzo di fondi per le armi. Aumentare 5 volte vuol dire andare a 62 miliardi e mezzo. Cosa vuol dire? Vuol dire che di quei 131 miliardi per difesa e spazio, strutturalmente per la difesa, per le armi, ci saranno circa 62 miliardi. Poi sappiamo anche che i fondi per l'aerospazio spesso e volentieri si sovrappongono, hanno un dual use e vanno comunque a vantaggio della stessa industria militare. Per chiarirci, questi 131 miliardi sono a livello comunitario, poi continua a esserci il piano Rearm Europe, giusto? Esattamente, il piano Rearm Europe è un vantaggio che l'Unione Europea ha dato sia in termini di prestiti, 150 miliardi, sia in termini di possibili spese in più senza incorrere nelle sanzioni date dal patto di stabilità ai singoli stati. Questi invece sono fondi direttamente dell'Unione Europea, però in realtà sappiamo benissimo che i fondi dell'Unione Europea sono i fondi degli stati, perché ovviamente il bilancio dell'Unione è composto dalle quote che ogni singolo paese dà. Il punto è che queste quote, noi abbiamo già iniziato a farlo come osservatorio MILAC, devono poi in certo modo essere considerate anche nella spesa militare nazionale, e quindi noi già appunto come MILEX abbiamo fatto una prima proiezione: se fosse confermato l'aumento di 5 volte, quindi circa 62 miliardi e mezzo solo per i fondi direttamente per l'industria della difesa, ciò vorrebbe dire che l'Italia, che ha una quota del 12,7% di contributi per il bilancio europeo, avrebbe un costo indiretto per questa spesa militare di quasi 8 miliardi, 7,93 miliardi per la precisione. Vuol dire circa 1,1 miliardi all'anno che i soldi che l'Italia dà all'Unione Europea sarebbero girati per l'industria militare. Ecco, questo sempre di più sarà un elemento da considerare nelle valutazioni della spesa militare di ogni singolo paese, perché non è che è perché passa tramite il bilancio europeo allora non sono più soldi nostri, sono sempre soldi nostri che fanno un passaggio in più e arrivano nelle tasche dell'industria militare. Quindi insomma l'Unione Europea, perlomeno nella volontà della Commissione, come dire, conferma questa strada che ha intrapreso verso la guerra. Sì, verso gli interessi armati che poi ovviamente portano guerra, e che poi ovviamente quando finiranno questi soldi, perché sappiamo benissimo che non è sostenibile questo tipo di spesa. Tra l'altro ieri un europarlamentare francese, e sappiamo quanto la Francia sia il paese che spinge tantissimo per sostenere l'industria militare, ha detto chiaramente: per arrivare a questi aumenti non ci devono essere problemi, dobbiamo tagliare l'aiuto umanitario dell'Unione Europea, quindi la cooperazione internazionale, dobbiamo tagliare pezzi di welfare, dobbiamo tagliare la parte della cosiddetta azione esterna europea, cioè la diplomazia, quella che invece potrebbe essere davvero la carta che risolve i conflitti. Quindi è evidente, è esplicito, non è più solo una paura o un timore della società civile, del movimento pacifista, lo dicono chiaramente: per dare soldi all'industria militare bisogna tagliare il sociale e bisogna tagliare addirittura la diplomazia. E questo ovviamente è gravissimo e aumenta l'insicurezza dei cittadini europei, perché aumenta un contesto del mondo che è sempre più conflittuale, sia in maniera esplicita, nel senso che si spara, sia in maniera anche implicita, guardiamo tutto quello che sta succedendo con i dati di Trump, eccetera, e tutto si riporta pesa poi sulle nostre spalle. È un boomerang che arriva a noi e che ovviamente avvantaggia solo gli interessi armati, molto bravi a fare lobby, molto bravi a prendersi sotto la loro ala le decisioni dei politici che si fanno abbindolare quando non sono complici espliciti da queste storie, da questi racconti per cui il futuro nostro è solo nella guerra e nelle armi, quando invece ovviamente sappiamo bene che la vera sicurezza è una sicurezza comune, una sicurezza condivisa, è una sicurezza data da un mondo che va verso una cooperazione e non verso uno scontro. Noi ovviamente chiederemo, lo chiediamo come movimento italiano, ma anche come campagna Stop the Arms Europe europea, che ci sia un ripensamento. È ancora possibile, perché come dicevo all'inizio, qui si tratta solo della prima bozza che la Commissione deve dare a metà di un ciclo di bilancio per il ciclo di bilancio successivo. Ovviamente anche il Parlamento europeo, nei cosiddetti scambi del trilogo, ha voce in capitolo, così come possono avere voce in capitolo gli stati nazionali. Ovviamente i governi in questo momento degli stati nazionali, degli stati membri, non sono distanti dalla linea della Commissione, tutt'altro, però noi pensiamo che a partire dal Parlamento europeo e poi eventualmente con la pressione sui paesi, sui governi nazionali, si possa far capire che questa è una strada insensata, questa è una strada che ci porterà ancora di più al baratro.